non rispetto la morale che vige, non ascolto ciò che il prete dice, non condivido il buon gusto del tuo paese felice, mangio merda sì finché non sono sazio, fanculo il tuo governo, a noi non ce ne fotte un cazzo, non guardo la TV e non mi sensibilizza, ascoltare i tuoi politici mi viene solo stizza, la gente non capisce che i discorsi sono fumo, date un voto per ciascuno e poi prendetela nel culo, le istituzioni sono marce, è un morbo che si sparge, il popolo è la vittima che piange, e c'è chi ancora simboleggia idee che sono false, rinnego il fascio, il tuo martello e la tua falce, e sii cattolico, fai il bravo cristiano, punta un po' del tuo denaro su città del Vaticano, Cristo torturato, la chiesa e la carnefice, fanculo te in ginocchio a venerare il tuo pontefice, imponi l'etica, io non posso capirlo, muori figlio di puttana, te come uno sbirro, stessa storia, stessi servi, stesso odio, stessa guerra che suono fino a che non mi chiudi manicomio, porta una maschera, tira una brutta aria, l'opinione pubblica sa male, ti contagia, fai che non accada, ti dicono appoggia, tu dili nada, io un MC che spara originale, fottuta outsider, tempi cupi, lo vedi ovunque scrutti, ci vogliono conformi, vogliono che stiamo muti, ululando come lupi, questa notte sarà nostra, fottuti, outsider senza sosta, tempi cupi, lo vedi ovunque scrutti, ci vogliono conformi, vogliono che stiamo muti, ululando come lupi, questa notte sarà nostra, fottuti, outsider senza sosta. Non riesco a stare secco e pezzo, per questo pezzo sopra i beats, odio gli ordini e chi dice shit, creo disordini se sto sul mic, il grido è sempre quello, Nick, la police, perché i corpi morti restano senza colpevole, da che mondo in mondo perde chi è più debole, e chi c'è il potere detta sempre le sue regole, se paghi le tasse poi ti sporgono le costole, ma se le vadi lo Stato ti sta le costole, vogliono tutto il pane, a noi lasciano un briciolo. Alla morte d'ogni infame non ci sono lacrime, fanno i cazzi propri su poltrone comode, hardcore 100% con le rime faccio centro qui, né destra né sinistra manco centro, perché con tutta quella merda manco centro, sai che mi spavento, veltroni, casini, bossi fini, punti di riferimento, no non ci sto, io mi rappresento e voterei un kamikaze che salta in aria dentro il Parlamento, boom, attento cerco il bene della chiesa con la lente di ingrandimento, non mi è mica scesa la farsa della casa di tutti, buoni e farabutti, beccatemi su di e sputi per i vostri furti, tempi cupi, lo vedi ovunque scrutti, ci vogliono conformi, vogliono che stiamo muti, ululando come lupi, questa notte sarà nostra, fottuti, outsider senza sosta, tempi cupi, lo vedi ovunque scrutti, ci vogliono conformi, vogliono che stiamo muti, ululando come lupi, questa notte sarà nostra, fottuti, outsider senza sosta. È tutto vero, non c'è nessuno in buona fede fra te, stronzate. Già. È la moneta che decide tutto, tu lo sai. Money make the world go round. Ognuno per sé. Sì, antagonisti sen cassem. Questa è la Mannaia Records. Outsider. Troppo onesti per fare politica.